Allora, intanto cominciamo questo incontro con i compagni della rivista Anarchica Giorni e Notti. Parleremo dalla pandemia alla guerra, crisi economica e anche delle tecnologie che più diciamo ci impensieriscono per il nostro futuro. Non è, diciamo, non vorremmo, ma come è stato anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto come assemblea contro il Green Pass, che abbiamo fatto a Centro Cede Aperte, la presentazione del nostro opuscolo, non è che ci interessa tanto fare una presentazione quanto aprire un dibattito che sia costruttivo rispetto alle ipotesi di lotta che abbiamo. Quindi diciamo che l'interesse principale è aprire una discussione sia, diciamo, per quanto riguarda la messa a punto, il confronto del periodo, della fase, diciamo, storica che abbiamo vissuto negli ultimi anni, come l'abbiamo interpretata, che insegnamenti ne abbiamo tratto, sia come quali prospettive di lotta concrete riusciamo a costruire nel prossimo periodo. Ora, chiaramente qua ci sono compagni e persone che provengono da esperienze diverse, quindi hanno anche vissuto questi anni in maniera differente. Per chi come noi ha fatto la scelta di partecipare al movimento contro il Green Pass, gli aspetti chiari erano che questo passaggio non sarebbe stata una spiacevole parentesi, ma avrebbe modificato, era una fase, diciamo, non solo simbolica ma anche concreta, di trasformazione all'interno della società nella quale viviamo, e quindi non ci sarebbe stato un ritorno al prima, ma saremmo entrati in una fase differente in cui alcuni aspetti, quali ad esempio il controllo sociale, il controllo dei corpi in tutti i sensi intesi, è più feroce, e anche una fase nel quale, diciamo, le trasformazioni capitaliste avanzano molto prepotentemente. Chi è stato in questi movimenti quindi ha a volte una chiave di lettura diversa, ad esempio legge la guerra come una continuazione di quella fase, strettamente connessa, come un'esigenza capitalista, quindi di costruire questa guerra per i propri interessi. Legge molte cose in maniera differente, ad esempio noi abbiamo seguito la questione della ZTL recentemente qua a Roma, e la leggiamo come il tentativo appunto di costruire, anche se sono forme embrionali, però vanno nel senso di costruire una società fondata sull'esclusione, per cui chi non è pienamente integrato in determinati processi capitalisti avrà negato l'accesso anche agli spazi, avrà negato l'accesso a determinati livelli di vita. Infatti, se guardiamo questi processi, si stanno sviluppando dietro, diciamo, la maschera dell'ecologismo, che in realtà è la trasformazione capitalista, quindi la necessità di aprire una nuova forma di produzione capitalista, e quindi non ha niente a che vedere con l'ecologismo che intendiamo noi, che è un cambio di modello produttivo, un cambio di sistema. Invece questo è come il sistema capitalista in qualche maniera si adegua a dei limiti fisici, producendo nuove forme di espansione in altri ambiti. Allora, dietro questa mascheratura, ad esempio, vediamo come ad esempio in questo momento si vieta l'accesso a determinate persone che non possono permettersi di accedere a determinati beni a determinate zone della città. Certo, sembra è molto embrionale, ma fa parte dei processi. Chi fa parte, diciamo, chi ha partecipato a questi movimenti li legge in una determinata maniera, cioè come l'evolversi dell'affermazione di un nuovo modello di dominio capitalista, così come legge anche la guerra. Perché? Perché secondo me bisogna uscire dall'ambito dei cliché, per cui i movimenti per tanti anni hanno riprodotto sempre le solite analisi, sempre le solite posture di fronte a una realtà che invece cambiava, mentre noi dobbiamo avere un'analisi sulla realtà oggettiva, sui movimenti reali, che non sempre è piacevole, perché non sempre i movimenti reali corrispondono a quello che sono i nostri desideri, a quella che è la nostra immaginazione. In questo momento abbiamo sicuramente una situazione di crisi e di fasce della popolazione che cominciano a non accettare determinate imposizioni, mentre veniamo da una fase precedente in cui, diciamo, il capitale aveva dichiarato di fatto la fine della storia e quindi l'integrazione completa nel proprio modello. Ma dico brevemente, queste trasformazioni, questi fermenti nella società non è che possono essere detti in maniera semplicemente determinista, per cui c'è una trasformazione che inevitabilmente porterà a qualcosa di positivo di noi. Sì. questi movimenti dipende da come vengono interpretati, come vengono in qualche maniera partecipati da minoranze, diciamo, agenti che hanno determinate capacità di spingere una determinata situazione, e come ci si organizza all'interno di queste situazioni. Quindi, ad esempio, noi abbiamo visto una situazione in cui molte persone si sono mosse contro il sistema, a volte con idee anche simili alle nostre, che sono state genericamente tacciate di essere reazionarie e abbandonate dal movimento. In questa maniera si facilita proprio la possibilità delle componenti reazionarie di gestire, diciamo, queste situazioni. Ecco, questi sono diciamo, argomenti un po' difficili, perché richiedono la capacità di interpretare costantemente la realtà che abbiamo davanti. Ripeto, noi invece siamo più stati abituati per anni a ragionare a schemi fissi, mentre la realtà appunto si trasforma. Se non siamo capaci di interpretarla, non siamo neanche capaci di interagire, di modificarla. Questa è l'aspetto. Quindi finisco qua, non voglio prolungare oltre. Quindi adesso loro con i compagni penso che ripercorreremo un po' quanto accaduto in questi anni tramite una loro analisi che parte appunto dalla crisi, la situazione pandemica, i passaggi tra la pandemia e la guerra, quindi il lascito della pandemia, e la situazione attuale e della guerra, diciamo, cercando di vedere la loro analisi e dando parecchio spazio poi a un confronto, agli interventi, ripeto, perché in realtà è un'occasione poi per discutere e vedere anche se si possono trovare dei punti di interesse comuni, delle possibilità di intervento. Vi lascio la parola. Vabbè, innanzitutto grazie dell'invito. Sicuro siamo in una situazione storica in cui le occasioni di confronto sono non solo preziose, sono proprio necessarie. Come premessa direi questo, che ha a che fare, al di là della nostra esperienza specifica, con la domanda cosa vuol dire fare teoria rivoluzionaria in un periodo come questo. Noi abbiamo cominciato a fare la rivista I giorni e le notti nel 2016, l'ultima riunione redazionale l'abbiamo fatta nel 2018 e soltanto di recente abbiamo avuto l'occasione di stare assieme e fare qualche ragionamento con una redazione nel frattempo diventata mignon. E quindi le cose che diremo stasera, alcune cose, sono propriamente degli scampoli di teoria, perché in un'epoca altamente disorientante, non solo dal punto di vista sociale, ma credo come tanti hanno potuto verificare direttamente, anche negli ambiti a noi vicini, ci siamo trovati a provare a elaborare dei ragionamenti, delle analisi, dai rispettivi isolamenti tra carcere e altre misure repressive, mentre un'elaborazione ha bisogno di un confronto collettivo, anche a partire proprio dai concetti stessi che si utilizzano. Si utilizza per esempio il concetto di categorie interpretative e si pensa che sia un fatto personale. Invece, come suggerisce l'etimologia della parola, categoreo vuol dire mettere nel centro di una piazza. Ecco, quindi le categorie interpretative hanno bisogno di spazi di confronto, di elaborazione e di esperienza a partire dalle quali ragionare, affinare, eccetera. Ecco, quindi quelli che siamo riusciti a mettere assieme sono scampoli di teoria. E c'era un anarchico che si chiamava Pio Turroni che nel 1934, dando alle stampe le riflessioni sulla guerra di Simone Weil, che sono dell'anno precedente, un testo di una chiarezza esemplare, estremamente prezioso anche per capire l'oggi, per capire la guerra in Ucraina, è più utile leggere le riflessioni di Simone Weil del 33 che tante saccenti analisi di geopolitica che a volte più confondono che non chiariscono. diceva per una premessa di una paginetta scarsa, diceva per agire energicamente bisogna pensare chiaramente. E Lavelle diceva in futuro se dovesse arrivare una guerra c'è il rischio, diceva nel 33, che questa non solo ci trovi impreparati dal punto di vista dell'azione rivoluzionaria, ma addirittura incapaci di saperla giudicare. Ecco, direi che ci siamo, quindi in questo momento cercare di avere le idee chiare non è un optional, è qualcosa di fondamentale, perché sennò è impossibile articolare un intervento che abbia delle pretese rivoluzionarie. E quindi occasioni come queste sono occasioni teoriche di elaborazione anche di categorie interpretative, in un'epoca, diceva Debord, dell'incomprensibile obbligatorio. Ecco, forse siamo entrati in pieno, a piedi proprio giunti, nell'epoca in cui l'incomprensibile è obbligatorio, e quindi diradare le nebbie ideologiche della propaganda, che non è soltanto un insieme di menzogne raccontate, ma è proprio un insieme di strumenti di cattura delle vite, è uno sforzo. La lucidità oggi è uno sforzo, mentre la pigrizia è un regalo al nemico. Bisogna dirsi delle cose fuori dai denti, anche scomode, se no è molto difficile intraprendere delle strade con determinazione. Ci siamo divisi un po' le cose da dire, comincia Carlo sul passaggio emergenza Covid-guerra, e io poi aggiungerò alcune cose invece su tecnologie convergenti, e per chiederci alla fine, insomma, spero tutti assieme, cosa fare concretamente contro la guerra e l'incarcerazione tecnologica della società, che vanno di pari passo. Ci avete mandato delle domande da 6 milioni di dollari, ecco, se pensavate che noi arrivassimo con le risposte vi siete sbagliati, qualche scampolo di idee, di suggerimenti, a partire anche dall'esperienza degli ultimi anni, questo forse sì, e il resto dipende dal confronto che speriamo sia intenso e approfondito. Vabbè, ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito, è un piacere vedervi così tanti e tante qui stasera. Faccio una brevissima premessa sulla rivista, poi entro nel vivo della discussione. Abbiamo portato qui alcuni numeri, purtroppo sono tutti arretrati, perché degli ultimi numeri del 13 e del 14, quelli in cui si parla di più dei temi di questa sera, purtroppo per mancanza di soldi non ne abbiamo stampato un gran numero di copie, però diversi articoli li potete trovare stampati meritoriamente in fotocopia dai compagni che hanno organizzato questa serata qua, e li potete trovare anche sul sito irrovescio.info, in particolar modo gli articoli dedicati alla questione Covid li trovate nella sezione un anno dopo, ecco, per chi se li vuole andare a leggere, cosa che magari potrà anche rendere meno oscure tutta una serie di cose che diremo stasera. Io mi sono chiesto che taglio dare alla mia relazione introduttiva, vista la ricchezza e la complessità di temi che ci tocca affrontare in questo presente sempre più complicato, no? Mi sono detto che avrei deciso il taglio guardando le facce di chi c'era, no? Ecco, vedo diverse persone che conosco da anni, ne vedo altre che ho avuto modo di frequentare con una certa frequenza negli ultimi due, e che quindi so non essere impreparate rispetto ai temi di stasera, ne vedo altre ancora che non ho mai visto o quasi, no? E quindi ho deciso di adottare questo taglio qua, no? Cercherò di dirvi semplicemente come la penso, quindi le riflessioni che sono riuscito a mettere insieme, in particolar modo a partire dal 2021, diciamo. Di alcune conclusioni sono abbastanza convinto, molte altre le considero delle semplici ipotesi su cui lavorare. In ogni caso ve le esporrò tutte quante in una maniera abbastanza schematica, proprio perché vorrei cercare di toccare più punti possibili in maniera tale da poterne ragionare insieme all'interno del dibattito, allo stesso tempo cercando di non parlare troppo, perché mi piacerebbe che stasera ci si confrontasse realmente su le lotte da fare. Lo dico in maniera molto imperativa, perché siamo di fronte a problemi estremamente gravi in cui ne va proprio della sopravvivenza stessa della specie umana, o comunque sia del tipo di sopravvivenza che ci verrà imposta, diciamo, nei prossimi anni. Credo la si possa dire con il titolo dell'ultimo Festival dell'Economia a Trento, che abbiamo appena contestato anche con un corteo contro la guerra, il cui titolo è Il futuro del futuro, era il futuro del futuro, un mondo nuovo tra pandemia e guerra, no? E quando uno sente un mondo nuovo, si immagina la cucina a Scavolini, no? E invece al mondo nuovo segue tra pandemia e guerra, no? Quindi se consideriamo, no, che il Festival dell'Economia di Trento è una vetrina del capitale non solo italiano ma anche internazionale, si andava dal presidente di Confindustria Bonomi fino al 19 membri, passato per 19 membri del governo, fino all'ex capo dei servizi segreti inglesi, l'MI6, diversi militari, generali che parlavano di cyber war, eccetera eccetera. Ecco, il programma, diciamo, di un capitalismo occidentale sempre più in decadenza, credo non potrebbe essere sintetizzato meglio. Allora, diciamo così, che cosa, secondo me, per capire che cosa è successo negli ultimi 2 anni bisogna fare un paio di premesse sugli ultimi 40 anni, no? Ovvero sia sostanzialmente dal momento in cui inizia a dispiegarsi quella che è stata chiamata la globalizzazione, dai primi anni 80, dal Volcker Shock, che non vi spiegherò cos'è, semmai ne parliamo dopo, dalla Reaganomics negli Stati Uniti, dal governo della Thatcher in Inghilterra, no? Ma se vogliamo bisognerebbe fare ancora un ulteriore passo indietro. In che senso? Nel senso che per capire che cosa è successo negli ultimi 2 anni bisogna tenere presente che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale si è creato un mondo sempre più drammaticamente centralizzato da ogni punto di vista, per il fatto che quella relazione storica che è alla base del capitalismo tra il capitale privato, in particolar modo bancario, e lo Stato, che storicamente trova il suo punto di incontro nel debito pubblico, no, si è fatta ancora più stretta attraverso la nascita di quello che viene chiamato il complesso militare industriale, ovvero una rete di collaborazioni tra apparati militari e industrie, e in particolar modo industrie belliche, che si è fatta sempre più fitta. Questo per quanto riguarda gli ultimi 70 anni. Per quanto riguarda gli ultimi 40 anni, invece, quindi il periodo che possiamo definire della globalizzazione, no? Noi vediamo un mondo in cui fondamentalmente c'è uno scarto, un discreto scarto, tra un'accumulazione di profitti sempre più alti, no? E una produzione a livello mondiale relativamente debole. Potrà sembrarvi strano, ma gli ultimi 40 anni non hanno visto grandi performance del PIL, viceversa, no? Hanno visto un'accumulazione di capitali che era enormemente più grande rispetto a quanto veniva prodotto, no? Ancora in maniera molto schematica, come è stato possibile che questo si realizzasse? diciamo, da una parte attraverso dei meccanismi di finanziarizzazione, quindi quello che si chiama fare denaro con il denaro, no? Attraverso il meccanismo del prestito, che fondamentalmente consiste nel fatto che io ti do dei soldi, tu me ne dovrai rendere di più, il fatto che tu me ne dovrai rendere di più mi permette di dare a qualcun altro un credito basato però su del denaro che io attualmente non ho ma che in futuro avrò, no? L'economia finanziaria funziona più o meno così. Dall'altra parte un asse invece di tipo estremamente materiale che ha unito in particolar modo le borse saldamente collocate in Occidente, no? E un capitalismo di tipo produttivo, fordista, diciamo, in un certo senso, sempre più impiantato ad Oriente, no? Particolarmente in Cina. Che cosa è successo? Ancora una volta tocca dirlo in maniera molto molto schematica, che nel 2008, con la grande crisi di fiducia innescata dai mutui subprime, dal crollo della Lehman Brothers, eccetera, questo meccanismo è andato a rompersi fondamentalmente, invertendo di fatto le politiche delle banche centrali, che se fino a quel momento lì avevano cercato, come dire, di tenere stretti i cordoni della borsa tenendo alti i tassi di interesse, da quel momento lì hanno cominciato sempre di più ad abbassare questi tassi, no? Per permettere alla liquidità di circolare all'interno del sistema capitalistico, un mondo fondamentalmente per tenerlo in piedi, no? Qui secondo me ci si avvicina al nesso tra pandemia e guerra. In che senso? Nel senso che nel sistema capitalistico fondamentalmente non è possibile nessun movimento di capitali da una zona a un'altra del mondo senza che determinate zone del mondo dove si dirigono i capitali finiscano in qualche maniera per svilupparsi e quindi per rivendicare la loro fetta all'interno del mercato mondiale, no? Ed è esattamente ciò che hanno cominciato a fare negli ultimi anni, da un lato la Cina, sempre più stanca di essere la fabbrica del mondo che produce per l'Occidente, mettendosi in tasca, nelle tasche dei padroni cinesi, ben inteso, no? Una fetta piuttosto contenuta del plusvalore estratto dai suoi operai rispetto a quella che invece finiva nelle tasche dei padroni occidentali, delle multinazionali, delle finanziarie e così via, no? E dall'altra la Russia che, come dire, si è stancata di essere invece il distributore, la stazione di rifornimento globale, no? Quella che vende gas e petrolio a prezzi stracciati. Se vi ricordate, nel 2019 ci sono stati almeno due fatti rilevanti, no? Da un lato era in corso fondamentalmente una guerra sui dazi del petrolio, no? Imposta dai paesi produttori, in primis la Russia, no? Che fondamentalmente non intendevano più fornire forniture energetiche all'Occidente ai prezzi precedenti, era in corso questa guerra commerciale, no? Dall'altro lato si moltiplicavano sempre di più le operazioni militari e veniva lanciata per i primi mesi del 2020 l'operazione Defender Europe, ovvero sostanzialmente una grossa operazione di logistica militare che doveva servire ad adeguare il territorio europeo, no, a una possibile guerra con la Russia. E dall'altra ancora l'IMES vi ha dedicato un intero numero, sempre in quello stesso 2019 Russia e Cina siglavano un patto di fondamentalmente assistenza reciproca, ovvero sia si impegnavano a venire l'una in soccorso dell'altra nel caso in cui una delle due avesse subito un attacco da parte degli Stati Uniti. Queste sono cose che in parte capivo allora, in parte ho capito dopo, in parte probabilmente non ho neanche capito. No, però mi ricordo che in quel 2019 il senso di una guerra che si avvicinava era molto molto forte, no? E poi però la guerra non è scoppiata, è scoppiata l'emergenza pandemica, no? Perché? Perché nel frattempo, a mio avviso, in quel periodo lì, particolarmente nell'estate del 2019, la crisi economica nel silenzio generale si è affacciata sullo scenario internazionale prima dello scoppio della guerra, con una crisi che si è avuta in particolar modo nei mercati statunitensi, che per chi la conosce è chiamata crisi dei titoli repo, no? I repo sono un tipo particolare di titoli che in italiano vengono chiamati pronti contro termine, in cui c'è un ente, solitamente una banca, che mette sul mercato un titolo, no? E si impegna a riacquistare quel titolo da chi lo compra a un prezzo maggiorato, tendenzialmente nell'arco di poche ore, no? È un modo fondamentalmente con cui le banche rastrellano liquidità all'interno dei mercati finanziari per le loro operazioni, no? In quel periodo lì, ora non mi ricordo esattamente il mese, credo fosse giugno del 2019, il valore dei titoli repo schizza alle stelle, aumenta improvvisamente di una decina di volte, no? Per chi conosce un minimo di economia, quando un qualsiasi titolo aumenta di valore, no? Cosa significa? Significa che fondamentalmente non lo vuole nessuno. Nessuno lo vuole comprare perché nessuno si fida a comprarlo. Se nessuno intendeva comprare quei titoli, questo voleva dire che i mercati fondamentalmente non si fidavano della capacità di solvibilità delle banche. Nel silenzio generale, che cosa è successo? È successo che BlackRock, ovvero il più grande fondo di investimento del mondo, si calcola che controlli circa il 40% dell'economia globale, lancia un piano in cui sostanzialmente dice, vi sembrerà strano sentirlo, ma l'economia contemporanea è piena di meccanismi strani, in cui sostanzialmente dice bisogna cercare di raffreddare l'economia globale, no, prima che salti la baracca, no? E contemporaneamente, no, la Banca dei Regolamenti Internazionali accoglie il piano di BlackRock, la Federal Reserve, no, fa un'azione che qualcuno dice sia senza precedenti, che si è chiamata going direct, più o meno azione diretta, ovvero sia aprono sostanzialmente dei giganteschi scoperti di conto corrente, ovvero sia inondano il mercato di liquidità fondata sul nulla. Ok? Che succede? Cioè, perché normalmente operazioni di questo tipo non vengono fatte? Queste operazioni si possono fare, però non sono senza conseguenze. Quando tu metti molta moneta sul mercato, si crea l'inflazione, che è un problema con cui siamo drammaticamente alle prese. Ovvero sia, no, la moneta fondamentalmente perde di valore. Se ci pensate è un meccanismo abbastanza banale, perché se teniamo presente che il valore di una cosa è determinato dalla sua rarità, principio cardine dell'economia classica da Ricardo in poi, no? Nel momento in cui di un certo valore ce n'è troppo nel sistema, quel certo valore cala. È abbastanza logico, no? Secondo me, non solo ovviamente secondo me, mi rifaccio ad altri come il buon Fabio Pighi, che vi invito ad andare a leggere a partire dall'articolo Paradigma Covid, secondo una serie di analisi analoghe che abbiamo prodotto anche nell'ambito dell'assemblea militante e così via. Una delle ragioni, no, per cui è stata lanciata l'operazione Covid è stata proprio questa, ovvero sia, come dire, tenere in vita, no, un sistema d'accumulazione che era nell'affanno più completo, no, stanziando quantità enormi di debito pubblico, recovery plan e così via, finanziando i vaccini, contemporaneamente promuovendo la rapina dei dati. Tenete presente che Amazon nel corso del solo 2020 ha triplicato il patrimonio. E Amazon non campa principalmente delle merci che vende, Amazon campa principalmente dei dati che estrae, questo lo potete leggere anche su Internazionale, non è un mistero, insomma, no? Non me l'hanno detto gli UFO, no? Ecco, questo dà la misura di che cosa è successo, no? Ovvero sia, inondazione dei mercati con moneta fittizia prodotta con il debito pubblico, rapina di dati della gente chiusa in casa, rapina di dati sanitari che si è realizzata con la campagna vaccinale e contemporaneamente, come dire, il meccanismo dei lockdown che per un certo periodo ha tenuto sotto controllo l'inflazione. Perché ha tenuto sotto controllo l'inflazione? Perché se io sono in una condizione per cui non so se potrò lavorare la prossima settimana, il prossimo mese, di qui ad un anno, non sarà quello il momento in cui, per esempio, deciderò di aprire il secondo ristorante o di rinnovare il Dehors. Quindi non sarà quello il momento in cui io contrarrò un prestito con una banca. D'accordo? Quindi che cosa è successo in quella fase lì? No? È successo che, sì, sono stati inondati i mercati di liquidità, no? E allo stesso tempo questa liquidità è finita tutta quanta all'interno delle borse, mentre è filtrata con il contagocce all'interno dell'economia reale. Se ci fate caso, ovviamente non è la sola causa, ce ne sono anche altre, non sto ad approfondire. Quando è che l'inflazione ha cominciato ad alzarsi? Più o meno dalla metà del 2021, con la cosiddetta ripartenza, e quando si sono esaurite le misure Covid, l'inflazione, nel frattempo è cominciata pure la guerra, quindi la speculazione poi nella borsa di Amsterdam e così via, è schizzata, l'inflazione è schizzata alle stelle, no? Di passata, no? Che cosa hanno realizzato in tutto questo lasso di tempo, quindi nel passaggio dall'operazione pandemica alla guerra, no? Sicuramente hanno ottenuto una società più disciplinata, una società più disposta ad accettare sacrifici di ogni genere, una società più militarizzata, nel senso di più simile a un corpo militare che obbedisce senza discutere, no? A mio avviso, hanno anche sperimentato una serie di sia di tecnologie che di tecnologie sociali, di modalità di gestione della società utili per scenari di guerra batteriologica. In che senso dico questo? Intanto teniamo presente che con quello che è successo fondamentalmente si è abituata la popolazione a reagire proprio come se fossimo di fronte a un attacco batteriologico, no? Se un attacco batteriologico dovesse effettivamente realizzarsi, la popolazione chiaramente sarebbe già più abituata a reagire e comportarsi in un certo modo dopo il Covid. Ma c'è anche una ragione più tecnica, cioè la tecnologia ad mRNA con cui sono stati realizzati i vaccini Pfizer e Moderna, quindi quelli che sono andati per la maggiore, è una tecnologia che finanziata e studiata, studiata non solo in ambiente militare, finanziata tantissimo dagli ambienti militari, dal Pentagono e così via, proprio perché utile in caso di guerra batteriologica. Perché la particolarità della tecnologia del mRNA è che permette di ricavare dei vaccini, perdonatemi la parola perché non sono esattamente dei vaccini, sono un po' un'altra cosa, ma comunque sia degli antidoti, diciamo, a un determinato patogeno in tempi molto brevi, perché questo tipo di tecnologia permette di realizzare, no, un siero di questo tipo senza dover per forza isolare chimicamente il virus, ma anche soltanto ricostruendo la sequenza al computer, no? Perché la tecnologia dell'mRNA funziona così fondamentalmente. Si prende una parte della sequenza di RNA di un virus, no? E la si inocula all'interno della cellula, si trucca il meccanismo di trasmissione dell'informazione cellulare, no? E si fa in modo che sia la cellula stessa a produrre l'antigene, cioè la proteina spike, che a sua volta innesca la reazione di tipo immunitario, no? E se noi pensiamo, no, al mondo in cui noi viviamo, no, la guerra batteriologica è probabilmente una delle guerre del futuro, perché non che non pensino che non siano possibili anche scenari di guerra nucleare, adesso stiamo andando pericolosamente vicini all'uso delle armi nucleari tattiche, allo stesso tempo i nostri padroni sanno esattamente come noi che il nucleare è uno strumento che conduce in tempi molto rapidi alla distruzione assicurata. Questo, a mio avviso, tenderà sempre di più, e non lo dico solo io, lo dice anche Fabio Mini, per dirne una, a sviluppare delle forme di guerra non convenzionali. Finora, capito, finora le guerre di tipo batteriologico non erano possibili perché non si sapeva bene come controllare la possibilità che il virus ti torni indietro. Con la sperimentazione biotecnologica di massa che si è realizzata con il Covid, diciamo che si è fatto un discreto passo avanti in questo senso, no? E che dire poi, no? Rispetto alla guerra, tra il periodo pandemico e il periodo attuale caratterizzato dalla guerra, ci sono sicuramente degli elementi di continuità, anche di discontinuità, a mio avviso, perché per esempio nel caso del periodo pandemico è stato messo in piedi un meccanismo che permetteva di inondare le borse di denaro e allo stesso tempo controllare l'inflazione. Nel caso della guerra chiaramente la prima parte si realizza, le industrie delle armi stanno facendo grandi affari, questo sicuramente contribuisce a tenere in piedi le borse, ma viceversa l'inflazione è completamente fuori controllo, no? Io credo che l'elemento più forte sia proprio di tipo psicologico, nel senso che con la pandemia ci hanno dato una bella lezione di resilienza, ci hanno sicuramente resi una società più disposta a sopportare vessazioni di ogni tipo, e secondo me è aspetto che dovremmo tenere ben presente, come dire, si è giocato con meccanismi molto molto simili, particolarmente su due emozioni, no? La paura, ieri la paura del virus, oggi la paura di Putin che potrebbe arrivare ad abbeverare i suoi cavalli a Berlino e a Roma se non lo fermiamo, ma anche il senso di colpa. Ieri ci hanno chiesto un sacrificio con la retorica dei fragili da preservare, oggi ci chiedono un sacrificio e ci chiedono anche di esporci a un rischio di distruzione sociale e fisica, no, in nome di una fantomatica resistenza ucraina inventata su misura, no, per convincere proprio quella parte di popolazione di sinistra che tendenzialmente dovrebbe essere la prima a scendere in piazza contro guerra, contro il controllo sociale, contro l'economia di guerra, contro i sacrifici che ci chiedono e così via, no? In realtà, se noi guardiamo come si è sviluppata la guerra un po' più da vicino, no, ci rendiamo conto che ancora una volta le cose non sono così semplici, non siamo semplicemente di fronte a un pazzo che si sveglia la mattina e decide di invadere l'Ucraina, ma ancora una volta una guerra che comincia in una forma non convenzionale, e mi riferisco in particolar modo alla rivoluzione colorata di Maidan, quando viene installato a Kiev un governo che fondamentalmente dava un messaggio molto chiaro alle popolazioni dell'est dell'Ucraina, dicendo: russi e russofoni, vi faremo la pelle, perché era questo il messaggio che arrivava da quel governo lì, no? Innescando una reazione che era allo stesso tempo di paura per la propria incolumità fisica, no? E di paura rispetto a un'ulteriore riforma in senso neoliberale dello Stato ucraino che sarebbe arrivata di lì a poco. Quello che si sta realizzando in Ucraina ha un qualche cosa di allucinante, perché, come dire, da una parte questa guerra ha un carattere estremamente simmetrico, nel senso che ad essere opposti non sono il governo di Kiev e la Russia, no? Ma un fronte composto da 31 paesi della NATO e la Russia, quindi fondamentalmente le due più grandi potenze a livello militare mondiali, no? Però anche estremamente asimmetriche nelle modalità, perché quella guerra lì comincia con una provocazione organizzata all'interno dell'Ucraina, comincia innescando la guerra civile all'interno di quel paese, comincia con i bombardamenti di Kiev su una parte della sua stessa popolazione, perché la gente del Donbass è stata anche bombardata, i morti sono stati per 10 anni, i morti sono state a migliaia. E altro aspetto, come dire, particolare è che in Ucraina fondamentalmente il capitale occidentale, in particolar modo gli Stati Uniti, e se vogliamo fare i nomi la famiglia Biden a partire dal figlio di Joe, no, sono riusciti a realizzare quello che non hanno potuto nell'Iraq degli ultimi 20 anni, ovvero si hanno reso l'Ucraina fondamentalmente un feudo del capitalismo occidentale. Tenete presente, soltanto per dire un paio di cose, che già nel 2020 Zelensky ha abolito la moratoria che era stata messa nel 2001 sulla vendita delle terre nere ucraine, per cui adesso le più fertili del mondo, per cui adesso il capitale occidentale sta facendo man bassa di quelle terre. È stata sdoganata qualsiasi tipo di applicazione biotecnologica, in nome della guerra si sono stracciati i contratti collettivi di tutte le aziende sotto i 200 dipendenti, ovvero la stragrande maggioranza delle aziende ucraine, è stato praticamente abolito il diritto di sciopero, no? E non solo, l'Ucraina è anche la terra con la legislazione più permissiva riguardo all'utero in affitto. E chiaramente in una situazione di povertà come quella lì, le donne sono costrette dalle loro stesse famiglie, per poter mangiare, no, a mettere al mondo i figli per altri, no? Questo è il massacro, capito, che è stato realizzato in Ucraina. Le responsabilità chiaramente non sono tutte quante dell'Occidente, diciamo che a partire dal 2014 sono sicuramente dell'Occidente, e la condizione si è ulteriormente aggravata in quella che comunque era già prima una delle economie più povere del mondo, in quanto paese estremamente conteso, estremamente diviso e così via, insomma. Quindi vabbè, io chiudo, messo insieme molte cose, magari ne parliamo meglio dopo. Lascio di nuovo la parola a Massimo. Diciamo, sono già tanti elementi, quindi io cerco di stringere il più possibile. Forse può essere utile per provare ad avere un quadro un po' preciso dell'epoca in cui siamo entrati, chiederci che rapporto esiste tra guerra e tecnologie convergenti, quindi tra sviluppo tecnologico, sviluppo capitalistico e tendenza ormai sempre più evidente, più strutturale alla guerra. In quest'epoca qua, oltre a battersi nelle strade, nello spazio sociale, c'è anche una battaglia importante da fare sulle parole, perché la nebbia è tanta e è in un periodo di grande confusione, a volte sembra, anche con altre aree, altri giri, di dire le stesse cose e invece così non è. Ad esempio c'è un uso, a mio avviso, molto impreciso, fuorviante e tendenzialmente rovesciato di senso rispetto alla parola tecnocrazia. Spesso si dice tecnocrazia come sinonimo dei burocrati di Bruxelles, l'elite apolide finanziaria, sono tutte, a mio avviso, definizioni improprie, fuorvianti, che non a caso vengono alimentate soprattutto dai giri sovranisti. Una definizione più corretta che hanno dato alcuni critici, diciamo, anti-industriali francesi è la tecnocrazia come classe della potenza, come quella che ha sviluppato la logica della potenza, e quindi chiedersi innanzitutto che rapporto esiste tra potenza tecnologica e profitto aiuta a chiarire le cose, nel senso che da diversi decenni, e questi ultimi anni sono stati un acceleratore formidabile, la logica della potenza tende a sopravanzare le stesse dinamiche del profitto, pur ovviamente non essendone autonoma. Ci sono delle ragioni economiche di investimento per cui vengono sviluppate determinate tecnologie, allo stesso tempo l'impatto complessivo delle tecnologie continuamente crea nuovi terreni di investimento che il profitto non era neanche in grado di immaginare. In questo senso si può dire che è il motore dello sviluppo capitalistico, ma anche per una ragione più profonda, proprio di dinamica strutturale. Più aumenta lo sviluppo tecnologico, quindi più aumenta quello che in senso marxiano è il capitale fisso, più si riduce il lavoro vivo produttore di valore, più questo determina la fuga in avanti della finanza, la finanziarizzazione dell'economia, che non è una roba che non dipende dallo sviluppo industriale come se fosse una sua metastasi, ma è proprio una proiezione. Più si sviluppa questa fuga in avanti della finanza, più ha bisogno di ritoccare terra e rivalorizzarsi per non avere valore che circola, ma che non ha niente di soggiacente, e più il capitalismo diventa predatore. Oggi siamo in una fase di predazione assoluta, non solo di territori, non soltanto di condotte, non soltanto di capacità, ma addirittura dei corpi. Questo perché? Perché nel frattempo lo sviluppo delle tecnologie convergenti ha permesso degli spazi di mercificazione impensabili fino a qualche decennio fa. Ed è questa una dinamica da cogliere bene, perché è una dinamica strutturale. Da sempre il rapporto tra capitale, Stato e sviluppo tecnologico è consustanziale, quindi non esiste né la tecnica come soggetto della storia in senso heideggeriano, ma non esiste nemmeno la tecnologia come mera ancella del profitto. Il rapporto è molto più intrecciato e diventa talmente intrecciato che tende ad essere la tecnologia il motore dello sviluppo capitalistico. Si possono fare diversi esempi, poi magari li faremo. L'altra questione, sempre a livello terminologico, è perché le tecnologie convergenti vengono chiamate così. Per una volta, non capita spesso, la lingua di legno del nemico è involontariamente veridica, perché convergono per davvero. E perché convergono per davvero? Non solo perché il loro sviluppo è sempre più intrecciato, ma perché hanno un paradigma in comune. Per tecnologie convergenti, io dico alcune cose di base magari sono anche scontate, ma meglio dirle che darle per note. Per tecnologie convergenti si intende l'insieme di informatica, nanotecnologie, biotecnologie e neurotecnologie o scienze cognitive. Perché convergono? Perché il loro sviluppo è sempre più intrecciato. Per fare un esempio terra-terra che ha coinvolto milioni di persone di recente, in un prodotto come i profarmaci a mRNA, i sieri genetici, ci sono tre tecnologie convergenti su quattro. Lo sviluppo di quel prodotto è stato reso possibile innanzitutto dall'intelligenza artificiale. Il grosso del lavoro è intelligenza artificiale e bioinformatica, dalle biotecnologie, cioè dall'ingegnerizzazione nello specifico del virus, dalla biologia di sintesi, perché una proteina è stata sintetizzata in laboratorio, e dalle nanotecnologie, nello specifico le nanoparticelle lipidiche, diciamo la capsula di grasso nella quale è stata inserita l'informazione genetica. Quindi un prodotto così minuscolo è il risultato della convergenza di tre tecnologie convergenti su quattro. La quarta è la neurotecnologia o neuroscienze o scienze cognitive, cioè tutto quello che sviluppa l'interfaccia tra cervello e computer. E questa cosa qua, che non nasce due anni fa, ma si inserisce in un solco molto più profondo, che ha come, diciamo, terreno potente di sperimentazione la Seconda Guerra Mondiale, la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 50. In quegli anni lì si cominciano a sviluppare sia le tecnologie di ingegneria genetica, sia quella che diventerà poi l'informatica propriamente detta, l'apparato digitale, ma anche il paradigma, che è il paradigma cibernetico. Cosa vuol dire il paradigma cibernetico? Vuol dire che l'elemento che hanno in comune dentro questa visione del mondo, che è una visione da Lego, da bricolage, è che tutta la realtà della materia organica, del vivente, è un mero flusso di dati, di informazioni. Ed essendo soltanto un flusso di dati, può essere scomposto, ricomposto, tagliato, modificato a piacimento. Questo vale per le macchine, per le condotte, così come per i corpi. Mi è capitato di ascoltare una conferenza involontariamente interessante di un bioinformatico che spiegava tecnicamente il funzionamento dei cosiddetti vaccini a mRNA e faceva vedere proprio il codice del vaccino con sotto una tastiera del computer e faceva notare come ci fosse una corrispondenza perfetta. E poi aggiungeva: è sbalorditivo come il funzionamento delle cellule del corpo umano corrisponda in tutto per tutto a un codice informatico. Non gli veniva il dubbio che fosse il contrario, cioè che l'applicazione al corpo umano di un codice informatico. E secondo alcuni sono stati gli sviluppi della biologia molecolare a suggerire alla stessa, diciamo, teoria informatica l'idea che tutto sia un flusso di dati. Sono stati alcuni biologi i primi a parlare dei corpi umani, ma non solo, anche animali, della materia vivente in generale, come algoritmi biochimici. Ora, se il corpo è un algoritmo biochimico, a maggior ragione tutte le relazioni sociali, tutti i rapporti tra esseri umani e natura possono essere scomposti in dati, questi dati possono essere assemblati. Questo paradigma non è nuovo, si elabora negli anni 50. Dov'è la novità? Che la cibernetica degli anni 50, che si fonde, come dire, nell'acciaio e nel sangue della Seconda Guerra Mondiale, non aveva fino in fondo i mezzi della propria potenza, che oggi invece ha. grazie allo sviluppo dell'apparato digitale e grazie allo sviluppo dell'ingegneria genetica e delle nanotecnologie. Le nanotecnologie, anche qua dico cose note, sono esattamente il ponte tra l'apparato digitale e i corpi, che possono essere e che vogliono essere, dentro una certa visione, migliorati geneticamente. Non so se vi è capitato di ascoltarla, se non vi è capitato ve la consiglio, una conferenza di Cingolani che ha tenuto ad un master per gli studenti dell'Università Statale di Milano, dal titolo Nanotecnologie per l'essere umano. Sono 35 minuti di conferenza, è un abile divulgatore, questo tecnocrate, quindi è molto chiaro. Parte dalla proiezione di un video che Microsoft proietta negli stadi durante le partite di baseball, di football americano, su come la tecnologia migliorerà la vita in futuro. Sono 3 minuti a cui il tecnocrate è oggi, non a caso, amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, aggiunge 33 minuti di spiegazioni. E lì si capisce bene perché il futuro è nelle nanotecnologie. Dice Cingolani che per creare un ponte tra l'apparato digitale e i corpi servono dei nanomateriali che assomiglino sempre di più alle caratteristiche del corpo umano, per cui anche introdurre nanomateriali di silicio lavorato o di altri materiali di sintesi è comunque qualcosa di non sufficientemente performante, quindi bisogna arrivare a una sorta di fusione tra questi nanomateriali e i corpi. Perché? Perché i corpi sono la macchina biochimica più perfetta, e lui dice: tu puoi avere l'intelligenza artificiale più performante del mondo, quella che è in grado di sostituire come tendenza gran parte delle attività umane, però se stacchi la presa non funziona niente, mentre un essere umano con una brioche dura 3 giorni. Quindi noi per Cingolani siamo delle macchine più performanti delle macchine digitali che hanno bisogno di energia e di corrente, ma abbiamo un difetto, che non abbiamo una presa qua che ci colleghi direttamente alle macchine. A questo servono le nanotecnologie. Per fare un esempio ancora più concreto, e questo riguarda il territorio in cui vivo, il Trentino, l'agricoltura 4.0. Uno dice: sarà mai possibile arrivare a una convergenza di tutte queste tecnologie per coltivare le vigne, le mele, eccetera? Sì, è possibile, perché la tendenza è quella di mettere assieme sensoristica, smartphone, droni da un lato, quindi lo sviluppo dell'apparato digitale, l'intelligenza artificiale per processare e lavorare i dati, e dall'altra parte lo sviluppo dei nuovi OGM, che adesso eufemisticamente, per ovviare al fatto che non c'è stata grande simpatia per quei prodotti lì, si chiamano tecnologie di evoluzione assistita. Hanno delle caratteristiche un po' diverse dal punto di vista tecnico, non sono basate sulla transgenesi ma sulla cisgenesi, cioè invece di trasferire geni di altre specie, il trasferimento migliorativo per questi tecnocrati dell'agricoltura avviene attraverso la stessa specie, quindi non più il gene del pesce nel pomodoro, ma il gene magari antico recuperato da altri contadini della vigna, messo assieme a un'altra vigna di un'altra zona, di modo da renderle più resilienti, parola chiave, più resistenti alla siccità, a nuovi parassiti, eccetera. E anche lì vediamo l'intreccio. E su questo stanno proprio correndo veloci. Stanno correndo veloci perché c'è una grossa pressione adesso per arrivare alla sperimentazione in campo aperto di queste nuove tecnologie di ingegneria genetica. Perché fino adesso, a livello giuridico, gli OGM sono comparati alle tecnologie di evoluzione assistita, ma dicono costoro, visto che la tecnica non è più la stessa ed è immensamente più sicura e anche molto meno costosa, bisogna autorizzarne la sperimentazione in campo aperto. La convergenza di queste tecnologie qua determina un fatto storico di grandi proporzioni, di cui ancora non ci accorgiamo, che è la creazione del latifondo digitale, cioè l'espulsione di centinaia di migliaia, che già sono pochissimi in generale rispetto alla popolazione, di contadini dalle campagne. Fenomeno molto visibile sia in Olanda che nel sud della Francia. Attualmente in Francia ci sono 400.000 contadini su una sessantina di milioni di abitanti, e già che società è quella in cui 400.000 persone danno da mangiare a 60 milioni? Questo è un bel lascito dell'industrializzazione delle campagne precedenti. Adesso questi prevedono di dimezzarli, quindi 200.000 se ne vanno a casa, perché persino le campagne saranno affidate a dei tecnici più o meno specializzati dipendenti dall'apparato. Come? Non è che li manderanno via tutti a bastonate, ma con meccanismi molto più subdoli. Tu vuoi continuare a toccare le piante per sentire se sono secche, a utilizzare l'acqua piovana, le falde che conosci perché fai sto mestiere da una vita e magari lo facevano anche i tuoi nonni, le tue nonne, eccetera. Ma se tu non utilizzi le sonde, i sensori, gli smartphone e i droni, quell'utilizzo dell'acqua lì non è tracciabile, quindi non è sufficientemente sostenibile perché non è green. Quindi ti scordi i finanziamenti europei o anche magari delle province autonome, come nel nostro caso, e quindi o accetti questo, e già che ci sei accetti anche le piante geneticamente modificate, perché gli stessi che hanno contribuito con le fondazioni, gli istituti come CREA, a industrializzare le campagne, quindi a standardizzare le piante, dicono effettivamente adesso le piante sono troppo omogenee, quindi i prodotti non sono differenziati. Bene, attraverso le nuove tecnologie di ingegneria genetica noi creiamo nuova biodiversità, perché creiamo vigne, meli, eccetera, eccetera, che non c'erano prima in natura. E questo meccanismo perché mai dovrebbe fermarsi alle piante? Dentro il paradigma cibernetico, per cui tutto è flusso di dati, di informazione, lo si applica anche agli esseri umani. Da questo punto di vista, la sperimentazione biotecnologica di massa ha sdoganato in un modo impressionante lo sviluppo dell'ingegneria genetica, non solo perché ha aperto delle finestre giuridico-normative che sono state subito riempite, ma perché i finanziamenti arrivano a pioggia. Penso che si sappia, per autorizzare lo sviluppo e la messa in commercio dei prodotti a mRNA hanno dovuto fare delle deroghe a due direttive europee in materia di OGM, una sulla produzione di organismi geneticamente modificati e un'altra sulla disseminazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Ora, quella deroga lì non è rientrata, nel frattempo hanno introdotto altre 10 colture OGM, colza, cotone, eccetera, eccetera. Adesso lo sviluppo ulteriore è fare di certe zone dell'Italia, ma questo è un processo complessivo mondiale, degli hub per lo sviluppo delle nuove tecnologie di evoluzione assistita, che utilizzano come tecnica l'editing. E non è un caso che si dica editare le piante, perché se le piante, ma come gli animali, come gli esseri umani, sono un insieme di lettere e di codici, io quell'insieme di lettere, di numeri e di codici lo posso ricombinare in laboratorio. Ed è la stessa logica che spinge verso la carne artificiale, eccetera, ed è la stessa logica che spinge verso non solo l'internet delle cose, ma verso l'internet dei corpi, di cui la DARPA, pezzo importante del Pentagono americano, parla da tanti anni. Ora, questo non deve essere, a differenza di quello che succede in altri giri della società, che si sono svegliati su questi temi. Non deve essere né l'elenco degli orrori né l'ipotesi ovviamente di un piano di Satana. Qua, cioè, il piano è diabolico, non c'è dubbio, nel senso che divide, ma non c'è nessun Satana dietro. È una dinamica strutturale, perché questo è lo sviluppo tecnologico che rende il capitalismo sempre più predatore, e dentro questa predazione la tendenza è strutturalmente la guerra, perché tutto questo sviluppo qua ha bisogno di rapinare metalli rari, terre rare, e quindi di imporre nuove enclosure in sempre più parti del mondo, ma non solo il cosiddetto sud del mondo, il terzo, quarto mondo nella nomenclatura della visione gerarchica degli esseri umani, ma anche i territori a due passi da noi, no? L'idea di cercare il litio in Lazio o il titanio in Liguria, e quindi c'è proprio un estrattivismo feroce che torna indietro, perché più oggetti connetti, più hai bisogno di quelle materie lì, più rapini quelle materie lì, più devi inventare materiali più compatibili. Ma siccome non soltanto non sono infinite queste materie, ma sono in alcune zone del mondo e non in altre, e magari nei territori in cui sono le classi dominanti non sono più disposte a vendere materia prima a prezzi stracciati, ma vogliono un po' di più nel banchetto capitalistico mondiale, questa è la tendenza alla guerra. Per cui c'è proprio, come dire, una linea retta di silicio, di sangue e di morte tra questo sviluppo tecnologico e la tendenza alla guerra. E oggi credo che non capire che queste sono le questioni decisive sia un errore. Tutto questo può anche dare le vertigini, ma come diceva il saggio, ormai senza vertigini non è più dato né pensare né agire. C'è stato un risveglio su questi temi, con fatti anche storici, come fotografia, al di là del giudizio di valore, 10.000 persone contro un biolaboratorio, me l'avessero detto 5-6 anni fa non ci avrei mai creduto. Poi quello che hanno nella testa, insomma, però io penso che siano tutto sommato preferibili gli umani scrausi ai militanti disumanizzati, però questa è un'ipotesi da verificare. E quindi per chiudere, scuso sia della lunghezza e anche insomma dell'approssimazione teorica, credo che la questione fondamentale oggi per contrastare tutto questo è non soltanto invertire i rapporti di forza, individuando, se ne siamo capaci, degli angoli di attacco a noi favorevoli, ma qui l'attacco è talmente radicale, per cui alla guerra guerreggiata si intreccia la guerra all'umano, che senza un'affermazione chiara, esplicita, non negoziabile di che cos'è per noi l'essere umano, di quale rapporto vogliamo avere con gli altri esseri viventi, non si va da nessuna parte. Oggi anche, come dire, i gesti quotidiani apparentemente più banali sono un concentrato di ideologia. A quel concentrato materiale di ideologia devi contrapporre una visione etico-politica che sia molto chiara, perché l'attacco è radicale, l'attacco proprio ha le stesse definizioni classiche dell'essere umano, prendiamo quelle aristoteliche, l'essere umano come l'animale che possiede il linguaggio, ecco, lo sviluppo degli algoritmi ti sottrae il linguaggio. L'animale politico, cioè che non può vivere senza una dimensione comunitaria. Questi ti ricombinano, ma ti tengono isolati e allo stesso ti socializzano nel tuo isolamento grazie all'incarcerazione tecnologica. L'essere umano come essere limitato e mortale. Questi invece ti vedono attualmente come una macchina difettosa che può essere migliorata, ovviamente questo sarà per l'upper class, perché gli altri faranno il mangime umano per lo sviluppo tecnologico, ma soprattutto questa cosa qua ha un limite oggi di scontro tra potenze, per cui passa attraverso la guerra. Quelli che dicono si arriva in linea diretta verso il transumanesimo, insomma, conoscono poco le dinamiche intercapitalistiche, perché dentro quel passaggio lì c'è una guerra non soltanto all'umano e a tutto il vivente, ma anche tra poteri concorrenti, perché la guerra in Ucraina, e sono le battute finali del ragionamento, è anche uno scontro fra tecnocrazie, tra tipi diversi di tecnocrazie. E contrariamente a chi pensava che lo Stato stesse per finire tra i musei dell'orrore della storia, perché tutto era in mano alle multinazionali, eccetera, è il modello più statalizzato, in guerra aperta e simmetrica, che ha la meglio su quello più neoliberale e non il contrario. E questo lo si vede a partire da quello che succede sul campo di battaglia. Ogni mese in Ucraina l'esercito armato da 31 paesi della NATO utilizza l'equivalente di munizionamenti che tutti i 31 paesi della NATO producono in un anno. Stanno esaurendo le scorte. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il futuro sarà riarmo pesante, 100.000 euro annunciati da Scholz, 413 miliardi annunciati da 413 miliardi di euro da Macron per il periodo dal 2024 al 2026 al 2030. E qui l'idea di portarle al 2% del PIL, eccetera. Questa è una tendenza strutturale, non solo perché è un modo per gestire il debito pubblico, ma perché questa non è una guerra come le altre. È la prima guerra simmetrica che affronta la NATO. Dall'altra parte non c'è l'Afghanistan, non c'è l'Iraq, non c'è la Libia, non c'è la Jugoslavia, c'è la più grande potenza nucleare del mondo. E quando arrivi al dunque, diceva un antropologo francese, borghese ma non stupido, ti rendi conto che tre quarti del tuo PIL è puro vapore acqueo. Ce l'hai il nickel, ce l'hai il gas, ce l'hai il petrolio, ce li hai gli ingegneri mobilitabili immediatamente per produrre le armi che ti servono sul campo di battaglia. Se invece devi passare attraverso i fondi di investimento, mettere d'accordo quelli, utilizzare le ONG per imbrogliare, eccetera, eccetera, tu arrivi con l'affanno. E questo è lo scenario. E quindi penso che la questione decisiva da affrontare sia come contribuire ad un movimento consistente, possibilmente di massa, contro la guerra, senza il quale siamo al palo e tutto il resto, salari, repressione, spazi di agibilità, tipo di carcerazione, eccetera, sono un riflesso. O la guerra non è un tema tra tanti altri, c'è la tecnologia, il razzismo, lo sfruttamento, l'ordine patriarcale e poi c'è la guerra. La guerra è lo sfondo che cambia tutto il resto. Allora, non so, posso come posso andare? Vai. Allora, prima di tutto grazie per la disamina, perché siete stati molto esaustivi e a tutto campo, perché avete affrontato tutti i punti più importanti, e comunque era una premessa che assolutamente ci veniva per inquadrare la situazione in cui siamo infilate. Io vorrei trascinare il discorso a un ambito più specifico, in questo senso, che prima di tutto riportare il discorso al politico, cioè quello che sta succedendo è il risultato di scelte politiche, cioè il capitale ha fatto delle scelte politiche che hanno delle conseguenze e ha fatto delle scelte ideologiche precise. Queste non è che sono dinamiche soltanto economiche, dinamiche finanziarie, dinamiche, derivano da scelte politiche di fondo. Allora, le scelte politiche riguardano anche chiaramente, in questo discorso molto comprensivo che avete fatto, il rapporto con il subalterno. Quindi il capitale in questa fase specifica, ma da diversi anni, ha deciso un rapporto nuovo e completamente diverso con i subalterni, con le classi subalterne, che poi sono diventate variegate, non sono più quelle della tradizione, chiamiamola così, marxista classica, e sono diventate tutte quelle fasce sociali che sono prese di mira, tartassate e sì, diciamo prese di mira e censurato dalle scelte neoliberiste economiche e di conseguenza c'è stato bisogno da parte del capitale di un approccio diverso. Praticamente il capitale in questa fase ha deciso, usiamo un termine così semplice, di appropriarsi dei meccanismi della vita e della morte. Cioè l'appropriazione dei meccanismi della vita e della morte gli permetterà di appropriarsi di quello che voi avete chiamato mano, quello che nella locandina abbiamo chiamato vivente, e comunque di mettere le mani sui meccanismi della natura intera. Questo gli permette di creare a piacimento gli esseri umani, di modificarli a seconda delle proprie esigenze, di farne quanti ne vuole e come ne vuole, di usarli come vuole e come ne vuole, e di decidere quali sono buoni, quali saranno usati, quali saranno superati, quali saranno rigettati. Cioè è proprio un rapporto completamente diverso con, io le chiamo le classi subalterne, ma potete chiamare stati sociali diversificati, potete chiamare tutti quelli che subiscono questo trattamento. Allora, dato che questo è un progetto politico vero e proprio, opporsi a questo progetto politico è la prima cosa che noi dobbiamo mettere in campo e affrontarla dal punto di vista politico. Vediamo se riesco a spiegarmi, perché tutto quello che avete detto è tutto giustissimo, è tutto perfetto, però poi noi ci scontriamo con tutta una serie di meccanismi che il potere mette in campo tutti i giorni nella nostra quotidianità e da anni, perché non è un problema di adesso, pre-pandemico, pandemico, post-pandemico, è un problema che viene da tanto tempo, vale a dire comunque diciamo dalla fine degli anni 80, proprio per farla semplificarla. Cioè dalla fine degli anni 80 è stato messo in campo un meccanismo di trasformazione di tutta una serie di cose, a cominciare dal linguaggio, cioè a cominciare dalla definizione delle cose, a cominciare dalla definizione della memoria, a cominciare dalla definizione dei rapporti di lavoro. Noi come femministe già da tanti anni abbiamo sentito proprio sulla pelle la messa in campo di tutta una serie di meccanismi di controllo dei subalterni che ci hanno richiamato immediatamente quelli del patriarcato, e ci siamo stupite che la maggior parte del movimento femminista sia stato silente, zitto e non abbia sentito queste cose. Perché? Hanno cominciato a mettere in campo colpevolizzazione, meritocrazia, stigma e punizione, delega, infantilizzazione nei confronti di qualsiasi rapporto con il potere, hanno messo mano a ogni interstizio della nostra vita, cioè non c'è stata più la divisione tra il tempo del lavoro, il tempo libero, il tempo, il tempo di niente, e questo è avvenuto attraverso un crescendo di quelle che il compagno ha detto chiaramente tutta una serie di tecnologie, di meccanismi, di strumenti. Però nella, facendo un passo alla volta, nella inconsapevolezza, poi hanno messo in campo il tema dell'insicurezza, hanno messo in campo sì un'insicurezza sociale creata, hanno militarizzato il territorio per questo. Tanto è vero che la nostra compagna ha detto una frase molto bella tempo fa: volevamo riprenderci la notte e ci siamo ritrovati solo con le telecamere, perché in pratica è stato questo, un passo alla volta si sono infilati attraverso il monitoraggio del territorio, le telecamere ovunque, sul posto di lavoro, i braccialetti, i tornelli, e tutto questo non è stato percepito come passo dopo passo verso un controllo sempre più stretto, non solo del tempo di lavoro, non solo, ma di tutta la nostra vita. Noi siamo arrivati alla fase pandemica che la maggior parte della gente aveva già introiettato tutti questi meccanismi, il legalitarismo eccessivo, le leggi, la punibilità debordante, cioè il fatto che abbiamo diviso la gente durante la pandemia in gente di serie A, in gente di serie B, era già in luce prima, e poi loro hanno avuto un terreno fertile per questo. Però tutte queste cose non sono dei compartimenti stagni fine se stessi, eccetera. Loro poi vanno a appropriarsi della vita e della morte, e i meccanismi attraverso cui lo fanno devono essere portati a sintesi da parte nostra, perché altrimenti rimangono delle esperienze settoriali e vengono lette come tali di una sciocchezza. Problema per esempio della morte cerebrale, che è di tanti anni fa, hanno preso spunto da una soluzione all'avanguardia, gli espianti, i trapianti, su, giù, là, là, siccome non si possono fare da un cadavere gli organi di un essere vivi, si sono inventati la legge della morte cerebrale, l'hanno studiata a tavolino. Allora a me non interessa come il, perché poi noi come compagni abbiamo lasciato ai cattolici reazionari integralisti lottare contro questa cosa, e invece questo è un errore, perché non è che a me interessa stare a decretare finché uno è morto, quando è morto, più o meno è morto, più è morto o meno. A me interessa dire no al fatto che lo Stato non può decretare la morte a tavolino, punto. Quindi questa, e questo ha aperto per esempio a tutto quello che è successo durante la pandemia, per cui il meccanismo per cui abitui la gente al fatto che tu ti approvi della morte, arriva al fatto che tu poi lasci morire i parenti, i vecchietti e compagnia bella da soli, e non ti ribolle, non ti assale una sensazione di non dico sfogliamento, ma proprio di violenza molto forte nei tuoi confronti. Nei confronti della vita è la stessa cosa, cioè hanno ribaltato il problema dei diritti, che sono una roba di una banalità sconcertante, l'hanno fatto diventare appagamento dei desideri individuali, cioè quello che ai nostri tempi era il personale politico, che significava che tutto quello che succede nella società poi è più riflesso, si riflette nel privato e viceversa, è diventato che il personale è importante, diventa problema politico. Quindi se io voglio l'inseminazione artificiale, devo volere l'inseminazione artificiale, la devo volere per forza, perché io voglio dire genetica. Sono state fatte passare attraverso appagamento di desideri, e non sono state lette come invece le mani sulla vita, perché di fatto sono le premesse per fare l'essere umano a tavolino. Questo vogliono fare l'essere umano è incubatrice, per cui cui a me sinceramente non è che interessa il problema specifico della lesbica che vuole un figlio, mi interessa il fatto che non dovrebbe essere politicamente possibile che una persona che ha subito sulla propria pelle la violenza dello Stato, dello stigma, della differenza e di tutto quello che lo Stato ha rinunciato come giudizio su di lei, poi si affidi allo Stato per fare un figlio, cioè si affidi ai meccanismi genetici per fare un figlio. Quindi, allora, non la voglio fare tanto lunga, però secondo me il problema di questa trasformazione in atto estremamente violenta, perché è chiamiamolo la tecnologia, le nanotecnologie, la tecnologia in tutte le sue parti, in tutte le sue componenti, ha una velocità di trasformazione impressionante, mentre noi siamo molto lenti nella definizione di una risposta. Dovrebbe essere affrontata soprattutto dal punto di vista politico, è inutile che noi ci mettiamo a discutere dal punto di vista etico o similare, se è giusto o non è giusto, quando è giusto o non è giusto. È un problema che non possono appropriarsi della nostra vita e della nostra morte, quindi è comunque no. Questo, cioè, trasferire il dibattito su un no secco a tutte queste cose, perché non è un problema se la tecnologia è buona, quanto è buona, è neutra, non è neutra, cose assolutamente impensabili, ma il problema è l'uso e comunque il progetto politico che lo ha. E a questo progetto politico che noi dobbiamo dire di no, e lo dobbiamo dire in ogni sua parte, e poi in queste parti portandole a sintesi, cioè quello che ha detto Pierre in apertura. Adesso qui a Roma vogliono fare la fascia verde. La fascia verde non ha niente a che fare con l'inquinamento, non ha niente a che fare con niente se non con il controllo della popolazione e la creazione di quelle che io chiamo le città degli dèi e le città degli uomini. Quindi la risposta è no, basta, cioè non ci sono né vie di mezzo né discussioni, perché bisognerebbe riuscire a far passare il discorso che loro hanno un progetto politico nei nostri confronti di asservimento e schiavitù totale. Questo è il modo. Sentite, scusate, visto che abbiamo raccolto un po' di interventi, vi chiediamo di essere abbastanza, non dico insomma, ovviamente non troppo lunghi, ognuno si regola, perché quindi c'è Luca il primo che... Pratica, volevo solamente dire che si è trascurato una cosa: l'importanza della pubblicità in senso lato, cioè far passare una cosa per un'altra è l'anima della pubblicità, okay? Della propaganda, di quello che volete, però avete capito, è chiaro il concetto. Quindi se io voglio attuare un furto, il furto è proprio l'espropriazione di cui si parlava di anzi, della vita, della morte, devo fare in modo che diventi un regalo. Cioè io ti darò qualcosa che te ne avresti diritto, ma questo è in tutti gli ambiti. Quindi tutto il... Per esempio Berlusconi ha avuto un impatto politico forte perché ha utilizzato le tecniche pubblicitarie per veicolare i suoi messaggi che voleva andare da qualche parte, per espropriare per esempio i diritti di tante persone, ok? Per appropriarsi della TV di Stato, per fare in modo che di condizionare vari meccanismi dello Stato, l'ha utilizzato sin dall'inizio. Ma queste persone qua lo stanno facendo continuamente, perché ti vogliono far apparire una cosa pubblicizzando la tendenza al contrario. Per esempio, prima ti dicono, ah guarda, riuscire a utilizzare nanotecnologie ti permetterà di risolvere problematiche come delle malattie, andare a curare in maniera specifica, puntuale, mirata, determinate malattie, ma non ti dicono che io potrò attivare un veleno che ti ho inoculato come mi pare e fare in modo che ti esploda, per esempio nel cervello ci sia qualcosa che inizia a surriscaldarsi per cui te ne vai, per esempio, ok? Queste nanotecnologie possono fare questo, cioè io lavoro in ambito informatico, ti permettono di fare tutte queste cose qua. Ora il gioco dei Lego, ricombinare eccetera eccetera, quello lì è un sistema perché si arriva alla famosa, quando si fa la tonnara, che sta per arrivare alla camera forte, piano piano si restringe l'angolo, ok? L'angolo, c'è cioè un certo angolo che viene restritto, vengono incanalati un po' alla volta, per cui non si accorge. Quindi c'è il famoso sistema della rana bollita, che anzi piano piano la temperatura, la rana è morta, muore tutto un colpo, diciamo è morta perché piano piano salita la temperatura. Il discorso delle tecniche di evoluzione assistita sulle piante, sulla natura, è perché si vuole arrivare a fare la stessa cosa sull'uomo. Cioè l'eugenetica è la stessa cosa delle tecniche dell'evoluzione assistita, è la stessa identica cosa. Ora, quando cioè questo da una parte servirà per fare due cose. Uno, creare la famosa società come quella delle api o delle formiche, in cui ci siano delle specializzazioni, in cui ci sta chi sta sopra, chi sta sotto, chi fa la guerra, eccetera, eccetera. Perfetto. Per cui lì non ci sarà più l'individuo, perché l'individuo deve sparire. Finché non sparisce l'individuo, non si potrà avere l'uniformità. Perché se una cosa è uniforme si sa come trattarla, perché tutte le cose si comportano allo stesso modo. Allora te devi fare il lavaggio del cervello qua, ma anche a livello interno dovrai modificare a livello genetico le persone, per cui ci sarà chi comanda e dovrà avere certe caratteristiche e magari dovrà vivere chissà quanti anni, gli altri sono spendibili, per cui l'importante è che quello che va a fare la guerra è forte, però poi se muore ce ne frega niente. Quello che lavora deve essere resistente, però poi se muore tanto ce ne stanno gli altri. L'importante è che si utilizzino queste tecniche poi per creare sempre di più delle classi differenziate, perché il sistema del furto, la guerra è uno delle massime espressioni del furto, ok? Quello che è lo sfruttamento sul lavoro è un furto, perché te ti freghi dei soldi che dovrebbero andare a qualcun altro, questo ci hanno insegnato Carletto, insomma, voglio dire, no? Per cui bisogna capirci, cioè sono tutti meccanismi questi che sono sempre gli stessi, però hanno assunto delle forme differenti e si sono appunto, ci sono state delle convergenze, e queste convergenze sono state date da tutte le tecniche che sono state assorbite in maniera profonda dal periodo del nazismo. Tutte queste tecniche, come le tecniche sulle V2 hanno portato poi a creare missili per lanciare nello spazio, le tecniche sulle torture sono servite per il Sud America, ok? Le tecniche sul convincimento della popolazione, prima per la pubblicità, però ora sono utilizzate anche da altri campi differenti, in maniera differente, più subdola, sul linguaggio. Va bene, sono molto d'accordo su tante cose, poi sulla guerra come dominante, questo sì. Ma questo aggiungendo un altro aspetto marxista, che il capitalismo, e questo su questo Marx è anche su un lungimirante, il capitalismo porta inevitabilmente alla guerra interimperialista per distruggere il capitale eccedente. Tutte le grandi crisi vere, profonde, come questa storica e praticamente cronica, sono da capitale eccedente, cioè c'è troppi capitalisti, troppo capitale, troppa popolazione sovra-eccedente, troppa classe operaria che non si sa cosa fare. Insomma, alla fine la soluzione in qualche forma diversa diventa distruzione. Questo abbiamo tutto il secolo precedente a dimostrarcelo. Questa è un'aggiunta per capire anche perché tutto il convergere tecnologico, una di queste cose qua, è tipo un genetico nazista, come ha detto anche lui. Cioè questi mirano a eliminare, a costruire degli scenari di criminalizzazione, di mostrificazione, di subumanizzazione di tutti i tanti settori mondiali, cioè che ne so, i congolesi, cosa contano i congolesi? Beh, i congolesi ne hanno massacrati a decine di milioni dai tempi di Mobutu, nei tempi della decolonizzazione cosiddetta, e li hanno massacrati, li stanno massacrando adesso come i bambini che lavorano a tirare fuori le materie prime per l'informatica di qua, fanno lavorare i bambini in miniera che naturalmente moriranno a 30 anni se gli va bene, intossicati, avvelenati. Cioè il capitalismo è mostruoso, quello che dicevi prima è vero, che qui ormai siamo alle vertigini, noi qualche, parlo di quelli che abbiamo a certa età, 20-30 anni fa, per quanto avessimo previsto lo stato imperialista delle multinazionali, che come formula non era male, che quindi era, ai servizi segreti hanno detto che chi ci aveva pensato, ci aveva azzeccato molto prima di tanti altri, che noi li criminalizzavamo, ma questi qui avevano visto molto più lungo, perché è vero. Cioè il capitalismo è mostruoso e oggi dà le vertigini. Tanto più se lo mettiamo in relazione, allora quando parliamo dei livelli di concentrazione, i vari Elon Musk, Jeff Bezos, questi sono dei re di danari inimmaginabili. Oggi questa gente qui ha in mano il destino, si parla di quei 100 miliardari così, che hanno in mano il destino del pianeta, della gente, di tutti. Cioè, le dimensioni sono queste qui, pazzesche. Sulla disumanizzazione aggiungerei una cosa che ci interessa adesso, il 41 bis, no? Come modello che poi comanda e formata anche. Quando si pensa, allora chi ha fatto carcere sa che arrivare a quel punto lì è veramente demoniaco, cioè vietare la parola. Cioè in quelle sezioni lì, io modestamente ho provato un anno di isolamento duro che non era 41 bis, ma ti vietavano la parola, li mandavamo a fanculo. Però a rischio sempre di piegarsi alla propria parola, ma ti vietavano la parola. Cioè poi non ci si vedeva neanche come detenuti, perché c'è tutti su un lato delle celle, di fronte non hai nessuno, quindi parli con l'albergo sconosciuto, è già delirante come cosa, come disumanizzazione. Ma nelle sezioni come quelle dove c'è Nadia Lioce, soprattutto le donne, quel divieto lì è diventato effettivo, perché anche per la composizione dei detenuti e tutto, insomma, la gente che sta lì è veramente una mostrificazione disumanizzata, ma terrificante, insomma una roba che dà le vertigini. Di fronte a tutto questo, è vero che anch'io confesso, io alcuni anni che sono stonato come un pugile, no? Che te suonano, francamente quella sensazione là, c'ho paura, ho affrontato la situazione, ma c'ho paura. Dico, il senso di impotenza, dice, ma qui che cavolo facciamo? Lì mancherà un po', dico, la mia così. La guerra non è solo negativa, perché la guerra c'è se spara. Perché la guerra, nel secolo scorso, sono state le situazioni in cui il capitalismo si è trovato la massa, che a un certo punto, la massa fanatizzata, ubriacata e religiosizzata quant'altro, a un certo punto si scuote e gira il senso dei fucili. E questo è successo nel 1917 in tantissimi paesi, Italia compresa, ha dato luogo a ondate rivoluzionarie, sia la prima che la seconda guerra mondiale. Non so se loro siano coscienti di questo, non so quanto, perché comunque loro non è che dominano tutto, controllano tutto, hanno tanto, ma nelle guerre c'è la possibilità rivoluzionaria. Comunque loro ci hanno chiuso tutti gli spazi riformisti, qui parlare di riformismo è ridicolo ormai, di cosa parliamo? Cioè la situazione è così, nel campo dell'oro, nel campo persino del patriarcato, vediamo gli arretramenti, torniamo indietro. Nel campo appunto del carcere, della repressione, adesso siamo sulla vertenza del 41 bis, ma e qui c'è stato un bel contenzioso adesso politico tra un cartello riformista che pretende forse di ottenere qualcosa con le scuole istituzionali e gli altri che giustamente non ci crediamo, ma non credendoci, a che cosa si può puntare? Io penso che c'è una vecchia cosa, ricetta di base, diciamo, io mi fermo poi dopo per non fare dei pipponi, se no ci soffochiamo. O anche in termini di, almeno marxisti, mi ricordo questo, non so, anarchici, cioè le lotte, tutto quello che si fa, le lotte in tutti i campi sono importanti, non tanto per le tragicomiche conquiste immediate, che ti possono sempre spazzare via, ma per l'accumulo di forza, per la coscienza, per l'organizzazione, bella parola, organizzazione, cioè arrivare a costruire noi forza, e mi attacco comunque a quel po' di speranza che c'è nel mondo. Dov'è quel po' di speranza? Uno alla moda è il Kurdistan, no? E in Kurdistan cosa c'hanno? C'hanno migliaia, decine di migliaia di militanti, di proletari e di proletarie armate, organizzate, capaci di sostenere lo scontro con gli eserciti della NATO e con le orde dei jihadisti e con le potenze straniere che ogni tanto gli tirano addosso i missili, anche loro, che siano gli Stati Uniti, la Russia, l'Iran. C'è questo, ma l'India, le Filippine, le guerriglie in Sud America, tutti questi fronti qua che ci sono, sono comunque basati su questo criterio qua. Cioè è giusto fare manifestazioni, i picchetti, gli scioperi, le alternative, le questioni che diceva sull'urbanistica, le questioni transfemministe, tutto quanto, però dobbiamo puntare a trasformarle in forza e tendenzialmente guardando alla guerra. In ogni caso loro ci trascinano in guerra, non è neanche più una scelta, qui dobbiamo essere coscienti che ormai siamo trascinati in quel vortice lì. L'unica speranza è costruire appunto forza, e io dico, è quello che bisogna guardare a questo con quell'occhio lì. Cito solo le compagne prigioniere nostre, rivoluzionarie, che sono in carcere da decenni e cosa, hanno quella fissa lì, non hanno resistito perché sono dei coglioni e perché pensano che quelli sono convinti, a torto a ragione, ma che c'è quella prospettiva lì. Oggi qui in Italia sembra una prospettiva lontanissima perché sembra un paese un po', insomma, un po' suonato, un po'. Però le cose cambiano, e guardiamo gli esempi storici, perché nel 17, cioè prima, in Francia, in Italia in particolare, in Germania, la gente era stata ubriacata, anche fisicamente, fanatizzata. Nel 17 è la rottura, dal 16 al 17 è la rottura, e si creano ondate rivoluzionarie. Io vedo un po' quella speranza lì. Bello? Ah, vado avanti. Michele. Allora, accolgo il discorso della centralità della guerra richiamato dall'ultimo intervento, ma anche dal ragionamento fatto da Massimo verso la fine. E quindi mi concentro solo sul tema della guerra, che è però un tema che ovviamente intreccia con gli altri, no? Nel senso di questa bella discussione di stasera. E quindi, leggendolo intanto sul terreno strettamente della guerra, io inviterei a fare questo appello, che magari è un po' controcorrente rispetto al ragionamento generale, e quello di, paradossalmente, di non sopravvalutare il ruolo delle tecnologie. Non perché non sia nefasto, perché non sia importante, ma non sopravvalutarlo, perché proprio se vogliamo, proprio sul terreno della guerra, e proprio questa guerra ce lo insegna nella sua brutalità, è un terreno di rapporti fra umani. Lo scontro sociale, l'organizzazione sociale è ancora un terreno dei rapporti fra umani. In realtà te l'hai spiegato bene, hai detto, qui nessuno crede a una soggettività, no? E degardiana storica della tecnica, quindi non è un riprovero a qualcuno, è un avvertimento metodologico. E proprio l'Ucraina ci ha riportato alle brutalità, per esempio, della prima guerra mondiale, con le trincee, con il tritacarne, con la guerra di logoramento, in cui l'obiettivo, e forse questa è una simmetria, ricollegandomi al discorso di Carlo, per cui da una parte la NATO, se vogliamo, risponde sul terreno tecnologico e la Russia risponde sul terreno della carne da cannone. Pensiamo alla battaglia conclusa da poco del Bakhmut, no? Il cui obiettivo ricordava le battaglie tra Germania e Francia, non era tanto avanzare ma sterminare esseri umani, avversari, per far cadere quanto più numero di umani possibili. Questo fatto trascende lo stesso discorso della guerra, perché in fondo sono convinto che tuttora sono gli umani a produrre la ricchezza, ed è lo sfruttamento di materiale organico ancora, perlomeno a questo livello della tecnica, che permette quella magia, no, del plusvalore, per cui posso darti meno di quanto poi tu valorizzi lavorando. E quindi la tecnologia è importante, ma non sopravvalutiamola. E da questo punto di vista, accogliendo anche l'invito a farmi un'assemblea teorica, nel senso più bello del termine, cioè concreta, pratica, di lotta, non dimentichiamoci le basi dell'internazionalismo, perché in questa guerra c'è più che mai una enorme confusione, soprattutto all'inizio, soprattutto nei movimenti antagonistici, in parte anche nel movimento anarchico, non in Italia per fortuna bisogna dire, di mancanza di una bussola chiara su quelle che so da sempre le parole dell'internazionalismo, che significa contro ogni Stato, contro ogni esercito, contro ogni imperialismo, ma a partire dal nostro, a partire dalla lotta per la sconfitta del nostro Stato, del nostro esercito, del nostro imperialismo. E qui abbiamo avuto delle confusioni pazzesche, soprattutto all'inizio della guerra, a favore della resistenza ucraina, a favore, in un qualche modo oggettivamente a favore della NATO. Allora, io ho una stima infinita per quegli anarchici russi che attaccano il sistema militare russo, fanno deragliare i treni e via dicendo, ma io dico che se degno di questi compagni significa non andare a contestare la Russia qui da noi, ma fare la stessa cosa che fanno loro, cioè attaccare le infrastrutture militari del nostro paese, della NATO, perché soltanto attraverso la sconfitta del nostro Stato, soltanto dentro il disfattismo, si crea un terremoto tale, una slavina tale, che può permettere prospettive di emancipazioni reali, concrete, può permettere la famosa chance rivoluzionaria di cui parla Walter Benjamin nelle sue tesi di filosofia della storia. E quindi, ma poi se vogliamo non è soltanto tatticismo grezzo, no? Non è questione soltanto di tattica rivoluzionaria, c'è come dell'etica, per Dio. Oggi i soldati italiani in Kosovo, che stanno lì da quasi 25 anni, no? Non ci raccontano più di questa guerra che hanno fatto nel 1999 e di quello che è successo. Oggi i soldati italiani in Kosovo, attaccando ai manifestanti, hanno sparato su una manifestazione uccidendo 4 serbi kosovari. Allora, questa non è una questione soltanto di tattica insurrezionale, è questione proprio etica. Cioè, il nostro Stato, il nostro esercito è composto da una banda d'assassini. E noi, se vogliamo fare un passo avanti sul terreno, sempre teorico, ma sul terreno di un'applicazione pratica, rivoluzionaria delle nostre teorie, io penso che da qua dobbiamo partire. Beh, io vado avanti, cioè facciamo gli interventi, poi magari loro fanno, se vogliono, un commento, una replica, un commento. E Lello, allora, Lello, se sei pronto, se no vado avanti. Come? No, dico, se ci sei, te... Allora, premetto che non ho sentito bene. Prima ha raccontato qualcosa, ma prima di fare una breve considerazione generale, due cose. La guerra in Ucraina è iniziata molto prima. Ed è iniziato con la pulizia etnica. L'avevamo detto questa. Cioè, la più schifosa delle guerre, iniziata dallo Stato ucraino che ha armato e mandato i nazisti a fare la guerra all'etnia russa, con armi che venivano sempre dall'Europa e dalla NATO. Quindi è una cosa che è iniziata molto prima, non bisogna mai dimenticarselo, se no rischiamo di perdere il quadro di insieme. Poi una notizia sconvolgente che ho letto in passato, cioè negli Stati Uniti hanno autorizzato di impiantare nel cervello degli esseri umani microchips che permetteranno di interagire con i computer. Stanno creando superuomini. Stanno creando un gruppo di superuomini, quali potete immaginare cosa vuol dire, no? Perderanno sempre più umanità, ma diventeranno tecnicamente e operativamente micidiali. Sì, en passant. Poi in generale, io ho sempre una preoccupazione quando si parla di crisi, no? Perché vedo le crisi da quando ero ragazzo, no? Allora, e vedo questo meccanismo. Il potere approfitta di ogni crisi per cambiare quotidiano, prende delle misure in nome dell'emergenza che poi non toglierà più e che modificheranno il quotidiano della gente. L'ultima cosa che sappiamo, in nome della crisi mondiale energetica, praticamente stanno creando la segregazione all'interno della città, impediranno ai poveri di entrare in città, se non che, come dicono loro, di controllarli sempre di più, tanto per capire il concetto, no? Allora noi, secondo me, dobbiamo approfittare delle loro crisi per attaccare la quotidianità, cioè servirci della crisi per fare capire e capire anche noi quello che succede ogni giorno, perché la quotidianità è schifosa. Cioè, la guerra, l'Italia si sta arricchendo con la guerra nello Yemen da tantissimi anni, vende armi all'Arabia Saudita con la triangolazione o direttamente, queste armi le vende. Cioè, quello che succede nel nostro mondo lo conosciamo, no? I morti sul lavoro, i morti in mare, le galere. Cioè, questa è la normalità. Allora, se noi corriamo dietro alle crisi, loro vanno avanti. Noi dobbiamo prendere la crisi per fare capire com'è la normalità. Cioè, io attacco, un esempio che è d'attualità, attacco il 41 bis, ma lo attacco perché voglio incrinare nella gente la certezza che la galera sia giusta e la certezza che il potere possa fare quello che vuole con i cattivi, non per attaccare il 41 bis, per attaccare la galera e attaccare il potere. Adesso la guerra, noi dovremmo far capire alla gente cos'è per te la guerra. Per te la guerra è l'aumento dei prezzi e non l'aumento degli stipendi. Per te italiano come me, la guerra è un impoverimento reale, perché la guerra la paghiamo noi. Fagli capire questo per spiegargli cosa fa il potere, come il potere, ma aiuta l'Ucraina e dopo ce la fa pagare a noi, ci impoverisce a noi. Cioè, non so se mi spiego, no? La crisi per fare capire il quotidiano, perché è il quotidiano che è schifoso, è la normalità che è schifosa ed è questa normalità che noi dobbiamo attaccare, dobbiamo cercare di scalfire, no? Attraverso la crisi, visto che c'è, visto che della crisi si parla, se no viene tutto recuperato, eh? Cioè, loro hanno tanta gente, contro la guerra scattano i pacifisti, no? Scatta la Chiesa, scatta una serie di persone che, se noi ci limitiamo a attaccare la guerra senza attaccare la sostanza del potere che queste guerre genera, facciamo il loro gioco, eh? Non solo è inutile, no, ma è dannoso. Fa il loro gioco. Qualunque attacco settoriale che non venga inserito nella comprensione della normalità criminale e quindi nell'attacco diretto al potere e a tutte le sue strutture, fa il loro gioco. Non so se mi spiego, no? Quindi dovremmo cercare di fare questo, legare l'emergenza, la crisi alla normalità, perché la gente incomincia a dubitare e incomincia a capire quello che succede ogni giorno. Cioè, i morti sul lavoro, la terra dei fuochi, la privazione della salute ai poveri, il genocidio contro i poveri. Questa non è una cosa straordinaria, è la nostra quotidianità, no? Non so, la Chiesa che dichiara di essere pedofila e dice apertamente che è successo l'ira di Dio, e la Chiesa resta lì, e questa è la nostra quotidianità. Quella ragazzina che è scomparsa, che sembra che ci sia di mezzo il Papa, noi ci assorbiamo tutto, ma questa è la quotidianità nostra, no? Non è una cosa diversa, non so se mi sono spiegato, penso di sì, quindi non insisto. Cerchiamo di andare sulla sostanza per impedire che la crisi serva loro per allontanarci dai problemi veri. È il potere che è criminale ed è il potere che va attaccato, crisi o non crisi. Vado avanti così.